Ciao Lara, sono Dario, ho 36 anni, vivo in Olanda, lavoro, modestamente campo anche abbastanza bene, quindi non sarebbe una relazione di solo interesse, lavoro per un'azienda taiwanese, faccio praticamente il mercato italiano, mi sembra una persona abbastanza intelligente, quindi perché no, potrei essere io che do l'opportunità a te di incontrarmi, quindi ti manderò la richiesta di amicizia su Facebook, così vediamo se da cosa nasce cosa. Eventualmente, mal che vada, puoi sempre venire per qualche weekend in Olanda, insomma, dai. La primavera qua non è per niente male. Ti saluto, ciao.